Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ci sono di nuovo scontri a Idomeni, al confine tra Grecia e Macedonia, lanci di lacrimogeni sui migranti. Intanto si parla di 1 milione di potenziali persone in partenza dalla Libia, lo dice il consigliere militare dell'inviato ONU, e proseguono i lavori per la barriera al Brennero. Grillo alla Camera Ardente di Casaleggio mentre i 5 Stelle si interrogano sul futuro del movimento. Domani i funerali del cofondatore del movimento. Esplode un ordigno davanti alla parrocchia di Don Vinicio Albanesi, il terzo attentato ad un edificio religioso del Fermano. Una chiesa attiva fa paura, dice lui ai nostri microfoni. Il ministro Poletti firma il decreto, via al part-time per chi è vicino alla pensione e per l'uscita graduale dal lavoro. Notte di campioni quella di ieri, Cristiano Ronaldo mette a segno una tripletta in NBA. Kobe Bryant chiude una carriera straordinaria. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp. C'è l'email effettogiorno@radio24.it e per i nostri aggiornamenti c'è anche il canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura, prima ancora di andare ad aprire un'ampia pagina dedicata ai confini dell'Europa, vi diamo un paio di notizie arrivate da poco. Innanzitutto l'accelerazione che sta avvenendo in questi minuti sui mercati in borsa, con il FTSE MIB che guadagna ormai quasi 4 punti percentuali, il FTSE All Share il 3,5%, e con i bancari che stanno dominando. Monte dei Paschi che guadagna l'11,5%, la Popolare Emilia Romagna il 9,2%, Unicredit l'8,6% e la Popolare di Milano l'8,5%. Su questo, come sempre, torneremo alle 13.30 per il consueto punto sui mercati con i colleghi di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. L'altra notizia importante sono le dichiarazioni del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in merito alla vicenda di Giulio Regeni. Sisi sta parlando in un incontro con esponenti politici, sindacati e ONG in Parlamento. Noi egiziani, dice, abbiamo creato un problema con l'assassinio di Giulio Regeni. Dice ancora al-Sisi che i media egiziani su questa vicenda hanno scritto delle menzogne e poi ha negato che i servizi di sicurezza egiziani siano dietro appunto all'uccisione del ricercatore italiano di 28 anni, è torturato e poi ucciso appunto al Cairo. Come sapete, la vicenda è fonte di grande tensione tra l'Italia e l'Egitto. Queste le parole di al-Sisi. Noi adesso andiamo sui confini europei, appunto, partendo dal tema della Libia e dell'immigrazione. All'indomani della visita del ministro degli esteri Gentiloni nel paese, primo rappresentante europeo ad incontrare i vertici del nuovo governo di Tripoli, si registra un attentato a Misurata mentre il consigliere militare dell'inviato delle Nazioni Unite lancia un allarme sul potenziale numero di migranti in arrivo in Europa, appunto dalla Libia e quindi attraverso il canale di Sicilia e quindi forse sulle nostre coste. Sentiamo. Un attentato kamikaze colpisce un posto di blocco a Misurata Est. Un morto e 4 feriti è il bilancio finale e i media locali attribuiscono la responsabilità a Daesh, l'ISIS. Un attacco che certamente non aiuta a stabilizzare il già difficile puzzle libico. Perché tutte le tessere vadano al loro posto, mancano infatti ancora molti elementi. Che il puzzle sia composto e stabilizzato serve anche all'Italia. È la condizione preliminare per fermare le continue partenze di gommoni e barche che dalla Libia puntano verso il nostro paese. In Libia ci sono 1 milione di potenziali migranti, ha detto stamattina il generale Paolo Serra, consigliere militare dell'inviato speciale ONU in Libia Martin Kobler, in audizione al Comitato Schengen, senza nascondere le proprie preoccupazioni anche sul fronte sicurezza. All'interno dei flussi migratori, ha detto Serra, potrebbero esserci cellule dormienti. Il consigliere dell'ONU ha poi parlato di condizioni terribili in cui si trovano i migranti in Libia. I centri di smistamento, ha detto, sono centri di detenzione, veri e propri magazzini di esseri umani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro quindi dal nostro confine meridionale, quello con la Libia, quello con il mare, ma c'è ovviamente una cronaca anche dal confine settentrionale, quello con l'Austria. Al nord proseguono i lavori per mettere a punto i controlli più intensi al confine con il Brennero. Alessandra Schepi si è intervistato il sindaco di Brennero, Franz Kompacher. Sentiamo. Sappiamo dei piani dell'Austria perché ci sono stati anche illustrati. Per noi c'è una brutta ora, una brutta giornata, no? Quando si vede che si passa alla realtà. Il Brenner ormai da 18 anni è un paese europeo aperto al mondo, dove la gente può girare liberamente, le merci che possono transitare liberamente, e questo, dico sempre, è un bene preziosissimo della nostra comunità europea. Perderlo è quasi come subire una ferita. La popolazione come lo sta vivendo? C'è preoccupazione, per esempio, che ci possa essere come una nuova Idomeni con concentrazioni? No, quello proprio no, perché pensiamo che questo, i flussi saranno più o meno quelli dell'anno scorso, diciamo, ben qualcuno in più ci sarà quest'anno, però chiaramente siamo preoccupati, perché i controlli, i contingenti giornalieri faranno sì che al Brenner potrebbero nascere dei problemi. Però io penso che per il Brenner non passeranno 300.000 persone, questo è sicuramente esagerato. Ecco, ma voi vi state attrezzando? C'è qualche piano? Abbiamo già concordato con le forze di polizia, con la questura, col commissariato del governo, con gli uffici competenti della provincia, che viene attuato un piano che è stato concordato in linea di massima, di fermarli già prima, diciamo, di fare un flusso, far sì che un flusso sostenibile verso il Brennero, di fermarli prima. E se dovesse capitare che al Brenno ci sono troppi che sono fermi, allora di ritornarli in altri comuni dove verranno fatte le strutture provvisorie per ospitarli. Questo il quadro dunque dal confine sud dell'Italia e dal confine nord. Al centro di tutto ovviamente c'è la complessiva stabilizzazione di un'area in difficoltà e i rapporti dell'Italia con una serie di partner che operano sostanzialmente in quest'area. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi conclude oggi la sua visita a Teheran. In Iran, una questione che rientra anche evidentemente al di là degli accordi commerciali che si avranno, proprio nell'ambito della ricerca di partner in quell'area del mondo. Ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che si trova a Teheran e ha seguito questa visita. Alberto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, che cosa ci puoi dire da questo punto di vista, dal punto di vista geopolitico, per così dire, delle mosse dell'Italia? Ma direi che il Presidente del Consiglio Renzi qui si sta giocando la carta iraniana, una carta che è ottima dal punto di vista degli affari, soprattutto in prospettiva, e che ci vede anche in prima linea, soprattutto per un motivo, perché l'Italia su questo tavolo iraniano ci ha subito messo 8,8 miliardi di euro di crediti e di facilitazioni finanziarie, quindi insomma un po' se lo sta guadagnando questo posto in prima linea negli affari con Teheran. E poi perché l'Iran è un paese strategico in tutto il Medio Oriente, come sapete bene è il paese da cui passano decisioni importanti per il Golfo, la stabilità del Golfo, per la stabilità dell'Iraq, della Siria, e quindi è un paese che evidentemente gioca un ruolo strategico fondamentale. Alberto, da questo punto di vista può essere, per così dire, la nostra sponda nell'area nel momento nel quale con l'Egitto la situazione si fa più difficile? Di questa mattina abbiamo le dichiarazioni del presidente egiziano al-Sisi che nega che i servizi di sicurezza siano dietro l'uccisione di Giulio Regeni, ricercatore italiana. Dice anche noi egiziani abbiamo creato il problema e dice i nostri media rilanciano menzogne. Fatto sta che i rapporti restano difficili e forse l'Italia cerca anche una nuova sponda. Ma sì, è quello che si è detto un po' scritto subito, direi, no? Cioè nel momento in cui gli affari in Egitto sembrano, come dire, un po' in pericolo, è chiaro che l'Iran, grande paese petrolifero con grandi riserve anche di gas e che ha un apparato industriale importante, appare subito evidentemente una sponda importante. Però, e questo lo scrivevo anche oggi sul giornale, è la carta quella iraniana che deve essere giocata davvero con convinzione ma anche con molta accortezza, perché l'Iran comunque resta un paese sotto osservazione da parte degli Stati Uniti, di Israele, della comunità internazionale. È chiaro che evidentemente la sponda iraniana in qualche modo cerca di sostituire quella egiziana, ma non in tutti i settori. sono state dette anche un po' delle cose imprecise in questi giorni, anche a proposito per esempio dell'Egitto. Pensate soltanto al contratto dell'Eni per il giacimento di Zohr. Proprio ieri parlavo con Descalzi, l'amministratore delegato dell'Eni, che mi faceva una valutazione di 12 miliardi di dollari per i diritti di esplorazione. Insomma, se qualcuno si vuole fare avanti deve tirare fuori parecchi soldini in Egitto. E allo stesso tempo l'Iran comunque rappresenta un mercato molto importante anche per l'Eni, come per tutte le aziende italiane. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore a Teheran, per questo aggiornamento. Noi torniamo alle vicende più strettamente italiane, occupandoci della morte di Gianroberto Casaleggio, uno dei due cofondatori del Movimento 5 Stelle. Oggi Grillo è arrivato alla Camera Ardente, che si trova all'Istituto Oxologico Italiano in via Mosè Bianchi a Milano, dove si trova la nostra Cristina Carpinelli. Cristina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Sì, sono arrivati verso mezzogiorno i parlamentari del Movimento 5 Stelle, non hanno rilasciato dichiarazioni in entrata, sono entrati nella Camera Ardente allestita, come dicevi, all'Oxologico di Milano per rendere l'ultimo saluto a Gianroberto Casaleggio, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle. Con i parlamentari, quindi con Di Maio, Fico, Di Battista, anche Beppe Grillo dietro, chiuso nel silenzio. Mattinata era arrivata anche Patrizia Bedori, ex candidata a sindaco di Milano per il Movimento 5 Stelle, un movimento che si interroga adesso sul futuro, sulla leadership. Una perdita incredibile, ha detto tra le altre cose questa mattina il premio Nobel Dario Fo in una conferenza stampa quasi improvvisata a casa sua. Si interrogano insomma tutti, soprattutto la base. Sentiamo un militante, un'intervista che mi ha raccolto proprio questa mattina. Mi ha spinto il cuore ad entrare dentro, è giusto che si entra dentro una persona a cui ha dato tanto e ha fatto nascere questo partito. Ha combattuto tanto, tanti non cercavano di eliminarlo, che non, però lui con la sua forza, insieme a Grillo e i suoi altri componenti, siamo riusciti ad andare avanti. Lei è preoccupato adesso per il futuro del movimento di cui lei mi diceva è militante? No, non siamo per niente preoccupati, perché dobbiamo essere preoccupati, anzi siamo più forti. Perché andiamo, dice? Perché è sicuro, perché non è solamente la mancanza di Casaleggio che noi andiamo giù, perdiamo i voti, no, assolutamente, vedrete che andremo ancora più forti. Ecco, Beppe Grillo, l'amico, l'uomo che da subito ha condiviso il progetto politico di Casaleggio, è apparso questa mattina davvero molto molto provato e proprio in questi istanti stiamo attendendo l'uscita ed eventuali sue dichiarazioni alla stampa. Domani mattina, funerali presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Per ora è tutto. Ti ringrazio, grazie a Cristina Carpinelli per questo aggiornamento. Ci occupiamo invece adesso di part-time pensioni, perché è arrivata questa mattina la firma del Ministro del Lavoro Poletti su un decreto molto atteso, un decreto attuativo molto atteso. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Decreto che riguarda il part-time agevolato in uscita per i lavoratori prossimi alla pensione. Viene disciplinata così una norma prevista dalla legge di stabilità per il 2016. Il nuovo meccanismo è destinato ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi, e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Questa platea di lavoratori potrà concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time con una riduzione dell'orario tra il 40 e il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato. Al contempo, questo meccanismo manterrà gli stessi contributi che garantiva l'impiego a tempo pieno. Lo Stato riconoscerà infatti al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata. Alla maturazione dell'età pensionabile, insomma, il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione senza alcuna penalizzazione. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Apre oggi in Lombardia, nell'area ex Alfa, il centro commerciale più grande d'Europa. Sta seguendo l'inaugurazione Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa, buongiorno. buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori. Poco fa il taglio del nastro con le autorità, presente il governatore della Lombardia Maroni, domani l'apertura al pubblico del centro, così si chiama, il centro commerciale più grande d'Italia, tra i più grandi d'Europa, come hai ricordato tu Simone, nell'ex area Alfa Romeo di Arese, poco fuori Milano, voluto da Marco Brunelli, presidente del gruppo Finiper, uno dei pionieri della grande distribuzione in Italia. 120.000 metri quadrati, 230 negozi, vi do alcuni numeri, 25 ristoranti, alcuni grandi brand fanno tra l'altro qui il loro debutto italiano, due su tutti Lego, con il primo Lego Store, e poi Primark, il retailer irlandese della moda low cost. Progetto architettonico di Michele De Lucchi, oltre ai negozi c'è anche un centro medico, uno skate park, un'area dog sitting e una pista da collaudo, la storica pista dell'Alfa Romeo tornata operativa. Attesi 15 milioni di visitatori all'anno, è tutto. Grazie Maria Luisa Pezzali, dunque 15 milioni di visitatori l'anno. Noi adesso, prima di andare a chiudere, a sentire che cosa succede sulle strade e poi ritrovarci subito dopo con altre notizie e altre storie, vogliamo fare un punto sui grandi campioni, perché ieri è stata senza dubbio la serata di Cristiano Ronaldo, ma è stata anche la notte di Kobe Bryant, che dice addio al basket. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, ben notte. Abbiamo evidentemente qualche problema, tutti i miei problemi, ho sbagliato io, assolviamo la regia, l'ottima regia di Paolo Corleone. Diciamo notti di campioni, come giustamente sottolineavi, perché Cristiano Ronaldo ha trascinato da solo il Real Madrid in una semifinale di Champions, 3 gol al Wolfsburg, e adesso si riapre il dibattito chi sia più grande tra lui e Lionel Messi. Beh, Messi risponderà questa sera, perché il Barcellona difende un vantaggio minimo sul campo dell'Atletico Madrid, il 2-1 conquistato con grande fatica all'andata, e quindi anche Messi è chiamato a mettere un punto esclamativo su questa Champions che ha già giubilato quell'Ibrahimovic, che grande trionfatore, grande vincitore di campionati, ma che sul piano europeo ha sempre fallito, e ieri sera ancora una volta il suo Paris Saint Germain si è visto estromettere dalla Champions da un Manchester City che squadra di fenomeni certo non è, ha un allenatore che di fatto è già stato esautorato, perché al suo posto, al posto di Pellegrini, arriverà Pep Guardiola. Ma insomma, il Manchester, il Citizen per la prima volta sono in semifinale di Champions, quella semifinale che lo stesso Guardiola, col Bayern Monaco che ha eliminato la Juventus, deve ancora conquistare. Dovrà farlo difendendo il gol che gli ha garantito all'andata il successo per 1-0 sul campo del Benfica. E poi questa sarà la notte di Kobe Bryant, uno dei più grandi di sempre del basket mondiale, del basket NBA. Stanotte contro Utah, l'appuntamento alle 4:30 italiane. Preparate il caffè, Simone, se vuoi venire a casa mia ce la vediamo pure insieme, perché saremo entrambi svegli per vederci comunque l'addio di un grandissimo. Biglietti a cifre stratosferiche, Los Angeles, lo sai, per salutare i suoi idoli fa sempre le cose in grande. E grazie a Dario Ricci per questo racconto, appunto, anche della serata che verrà. Noi adesso ci fermiamo, sentiamo cosa succede sulle strade, poi nella seconda parte della trasmissione, tra le altre cose, sentiremo l'intervista che ha realizzato Katia Caramelli con Don Vinicio Albanesi. Siamo al terzo attentato contro una chiesa nel Fermano nel giro di pochi mesi. Lui dice, appunto, una chiesa attiva su tutti i fronti probabilmente dà fastidio. E poi ieri abbiamo parlato del referendum sulle trivelle, abbiamo ospitato il professor Carlo Andrea Bollino della LUISS, che era a favore, diciamo, tendenzialmente del no, o piuttosto dell'astensione. Sentiremo una voce invece a favore del sì, e quella di Michele Emiliano, che è intervenuto questa mattina a 24 Mattino. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: al Sisi parla il presidente egiziano sul caso Regeni, abbiamo sbagliato noi egiziani ma i servizi segreti non c'entrano, dice, e poi attacca i media egiziani. La giornata di borsa vede forti rialzi a Milano, un più 3,77% sul FTSE MIB, positive tutte le banche, con Monte dei Paschi che guadagna il 9,2%, Popolare Emilia Romagna il 9,06%, Unicredit l'8,7%. Approfondiremo tra poco nello spazio dedicato alle 13:30. Un milione di potenziali migranti dalla Libia, dice il consigliere militare dell'inviato ONU. Proseguono intanto i lavori per la barriera al Brennero, nuovi scontri a Idomeni. Grillo alla Camera Ardente di Casaleggio mentre i 5 Stelle si interrogano sul futuro del movimento. Domani i funerali del cofondatore. Esplode un ordigno davanti alla parrocchia di Don Vinicio Albanesi e ci arriveremo tra un attimo. Il terzo attentato ad un edificio religioso del Fermano. Il ministro Poletti ha firmato il decreto, via il part-time per chi è vicino alla pensione per l'uscita graduale dal lavoro. Dunque parliamo adesso di Don Vinicio Albanesi. Don Vinicio Albanesi è un prete, il presidente della comunità di Capodarco dal 1994, è stato tra l'altro il fondatore dell'agenzia giornalistica Redattore Sociale, fondatore insieme a Don Ciotti del coordinamento delle comunità di accoglienza. Il suo lavoro nel sociale è noto. Ebbene, sta succedendo qualcosa di strano in queste ore. Succede che davanti al portone della sua parrocchia, nella frazione di San Marco alle Paludi, a Fermo, è esploso un ordigno rudimentale. Però nella zona non è il primo caso. Si tratta del terzo attentato ad una chiesa fermana dopo quelli dei mesi scorsi contro il Duomo e San Marco. Don Vinicio ci dice, o meglio lo dice a Katia Caramelli che lo ha intervistato, una chiesa attiva su tutti i fronti, probabilmente dà fastidio, e fa anche delle ipotesi su quelli che potrebbero essere gli autori degli attentati. Ma secondo me ci sono due filoni. Il primo, siccome stiamo intervenendo su una zona un pochino degradata del nostro territorio, fatta così di prostituzione, di spaccio, di queste forme di basso proprio profilo, malavitoso. E dall'altro l'accoglienza che abbiamo fatto intensa a stranieri con i programmi di Mare Nostrum, quindi però non abbiamo avuto né avvertimenti né telefonate anonime né rivendicazioni. Dominicio, però non è la prima chiesa presa di mira. È la terza. Ci potrebbe essere un filo conduttore? Certamente c'è un filo conduttore, nel senso che siamo tre preti che si occupano di Caritas. Don Pietro che fa il direttore della Caritas, Don Sebastiano che è il parroco di una zona devastata e poi io che faccio il presidente della Fondazione Diocesana. Così dunque Don Vinicio Albanesi. Intanto vi aggiorno sulle parole del ministro degli esteri Paolo Gentiloni durante un convegno a Palazzo Giustiniani a Roma in merito alla decisione dell'Austria di rafforzare i controlli al Brennero. L'Austria è un paese amico con il quale mi auguro si possa continuare a collaborare, ma dal quale non possiamo accettare, e questa è la parte forte di quello che dice Gentiloni, la logica di gesti unilaterali che comprometterebbero questa capacità di collaborazione. Così dunque il ministro Gentiloni sul tema dell'Austria. Noi veniamo invece al referendum cosiddetto sulle trivelle, che è un referendum, lo ricordiamo ancora una volta, che riguarda in realtà la durata delle concessioni per le piattaforme che si trovano nel mare Mediterraneo entro le 12 miglia. Il tema appunto è la durata delle concessioni. Le piattaforme sono in gran parte, come abbiamo raccontato ieri, piattaforme di gas e non piattaforme petrolifere, anche se ce ne sono alcune appunto petrolifere. Ieri abbiamo sentito la voce del professore della LUISS Guido Carli, Carlo Andrea Bollino, che ci ha appunto esposto un po' un quadro della situazione e dato anche qual è la sua posizione in merito a questo referendum. Oggi sentiamo l'altra parte, lo facciamo con l'intervista realizzata questa mattina da Oscar Giannino e Alessandro Milan in Attenti a quei due, 24 mattino Attenti a noi due, ed è l'intervista col presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che è stato fin dall'inizio schierato sul fronte del sì e capofila delle regioni che hanno presentato la richiesta di referendum. Sentiamo. Come è nata questa campagna referendaria? Il governo, dopo che c'erano state tante polemiche sulle trivellazioni nelle 12 miglia, cioè vicine alla costa, il governo fa un errore, cioè con riferimento alle procedure in corso, perché ovviamente ogni volta che si fa un divieto in Italia si salvano le procedure in corso, il governo applica lo sblocca Italia e quindi fa saltare il TAP delle regioni e la Puglia rischiava di avere 12-13 autorizzazioni alle trivellazioni attorno alle sue coste per centinaia di posti, perché ogni autorizzazione può avere anche più posti. A quel punto noi andiamo al ministero, quello famoso ministero dove c'era la Guidi, sì. Andiamo lì per dire: guardate che avete fatto un pastrocchio, cioè avete prima stabilito che c'era il divieto nelle 12 miglia, adesso con lo sblocca Italia facilitate le ricerche nelle 12 miglia. Che facciamo? Non ci ricevono neanche. Siamo stati costretti al referendum. Nelle 12 miglia ci sono 92 piattaforme. La metà di queste non danno più niente, vanno chiuse. Per chiuderle ci vogliono un sacco di soldi. I petrolieri non li hanno perché in questo momento il petrolio va male e non hanno accumulato soldi. Il governo che fa? Anziché dire chiaramente, guardate, abbiamo un problema a Houston, no? Gli allunga le concessioni all'infinito in modo tale che poi vediamo. Sì. Una cosa all'italiano. E lei ha invita tutti gli italiani ovviamente ad andare a votare e a votare sì. Ma siamo pragmatici, lei crede davvero che si raggiunga il quorum? Ma io credo che a questo punto il referendum abbia già vinto, quindi raggiungere il quorum è importante, ovviamente noi faremo di tutto per farlo. È una risposta all'ascoltatore, perché forse non siamo stati abbastanza chiari su questo, che ci dice, beh, non avete spiegato bene cosa succede se vince il sì o vince il no. Che cosa succede? Succede questo. È entrata in vigore una norma nella legge di stabilità il 1 gennaio 2016 che permette di estendere la concessione per lo sfruttamento di quel giacimento per la durata di vita utile del giacimento, quindi fino all'esaurimento del giacimento stesso. Il referendum chiede se si vuole abolire quella norma e tornare eventualmente alla disciplina precedente, nel caso vincessero i sì al referendum, si raggiungesse il quorum e vincessero i sì, alla disciplina precedente che prevede che le concessioni durino 30 anni con possibilità di altre proroghe per complessivi 20 anni. Questo è quello che chiede il referendum. Adesso ci fermiamo, ci troviamo tra un attimo con degli importanti aggiornamenti di borsa, perché come già vi dicevo la giornata è ottima tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. C'è il generale Al-Sisi, il presidente egiziano, che parla sul caso di Giulio Regeni, ricercatore di 28 anni, torturato e ucciso al Cairo. Abbiamo sbagliato noi egiziani, ma i servizi segreti non c'entrano, dice. E lamenta che il problema per l'Egitto è stato generato dalla pubblicazione da parte di media egiziani di menzogne. C'è un milione di potenziali migranti in arrivo dalla Libia, dice il consigliere militare dell'inviato ONU, il generale Serra. Proseguono intanto i lavori per la barriera al Brennero e il ministro Gentiloni, dice il ministro degli esteri, non accetteremo gesti unilaterali dall'Austria. Nel frattempo ci sono nuovi scontri a Idomeni con lancio di fumogeni da parte della polizia macedona. Grillo è arrivato oggi alla camera ardente di Gianroberto Casaleggio, mentre i 5 Stelle si interrogano sul futuro del movimento. Domani i funerali. Esploso un ordigno davanti alla parrocchia di Don Vinicio Albanese, il terzo attentato ad un edificio religioso del Fermano, una chiesa attiva fa paura, dice il fondatore della comunità Capodarco ai nostri microfoni. Il ministro Poletti ha firmato il decreto, via il part-time per chi è vicino alla pensione e per l'uscita graduale dal lavoro. Questi erano i nostri titoli, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Innanzitutto una appena battuta delle agenzie che riguarda una vicenda di tennis della quale ci eravamo occupati. La vicenda di Maria Sharapova, la campionessa di tennis, come sapete, che aveva dichiarato di essere positiva al doping. Qual è il punto? Che Maria Sharapova aveva dichiarato di essere positiva ad una sostanza, il meldonio, che era stata dichiarata fuori legge, diciamo, in termini di doping, appunto, solamente dall'inizio del 2016 e che di fatto l'aveva usata prima. Ebbene, si è appreso adesso che l'Agenzia Mondiale Antidoping, anzi lo ha dichiarato la stessa Agenzia Mondiale Antidoping, ha detto che alcuni dei 120 positivi potrebbero evitare la sospensione in mancanza di dati certi sulla tempistica di permanenza del farmaco nell'organismo. In sostanza, se non si sa quanto il farmaco è rimasto nell'organismo e se si può ipotizzare che ci fosse da prima appunto del 2016, ebbene, da prima dell'inizio del 2016, ebbene, in questo caso appunto gli atleti potrebbero evitare la sospensione. E adesso un grande evento italiano. Siamo stati nei giorni scorsi e vi abbiamo parlato di Vinitaly, che si chiude oggi. Si è aperto invece ieri il Salone del Mobile. Ebbene, le nostre cronache oggi ci raccontano un po' di come il mondo del lusso sta affrontando il Salone e il mondo del mobile. Una poltrona Aston Martin, un giardino d'inverno firmato Cavalli, una camera da letto Fendi, ma anche Ferrari, Versace e tanti altri. Se fino alla scorsa edizione veniva presentato in maniera diffusa all'interno di diversi padiglioni, il lusso al Salone del Mobile 2016 si ritaglia uno spazio tutto suo, un padiglione chiamato X-Lux, dove sarà possibile fino a domenica 16 aprile visitare gli stand espositivi dei marchi che in questo settore hanno reso celebre l'Italia nel mondo. Un'esigenza, quella di creare uno spazio apposito, nata per rispondere alla sempre crescente domanda estera, che vede la nascita di nuovi mercati oltre a Russia, Cina e paesi arabi, come spiega Alberto Vignatelli, presidente di Luxury Living Group, l'azienda che realizza interior design per conto dei principali marchi dell'arredo. Ci sono tanti paesi al mondo che crescono, Singapore, la Malesia, l'Indonesia, ossia nuovi ricchi, nascono dappertutto continuamente, quindi non è solamente cinesi o arabi, voglio dire, no, è dappertutto. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. E questo il quadro, il racconto appunto dal Salone del Mobile. Nel frattempo vi do un breve aggiornamento sui mercati, che stanno continuando ad andare molto bene. Il FTSE MIB guadagna il 3,7%, il FTSE OSHARE il 3,4%, e appunto, come si diceva, positive tutte le banche. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, una breve risposta ad un ascoltatore che un po' duramente e su WhatsApp, continuando a mandare messaggi nei quali ci chiede di rispondere, dice: ma perché con tutti i problemi che abbiamo vi occupate i profughi e migranti? È molto semplice, il racconto l'abbiamo fatto oggi. Le notizie di oggi ci raccontano che il consigliere militare della persona che sta cercando di gestire per le Nazioni Unite la transizione in Libia racconta che c'è 1 milione di potenziali migranti in partenza dalla Libia. Questo vuol dire che sono persone che potenzialmente potrebbero arrivare sulle nostre coste, visto che la rotta dall'altra parte è chiusa, e il rischio è di ritrovarsi in una situazione nella quale il Brennero diventi un vero e proprio cul-de-sac. L'Austria chiude i confini, i migranti arrivano in Italia e poi dall'Italia evidentemente non si possono muovere più, e questo è il motivo per il quale ci occupiamo così tanto di questo argomento, un problema politico che riguarda tra l'altro anche il futuro dell'Europa. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.